certo giorno in riva al mare si presentò un giovin Galileo. Nessun poteva immaginare che si potesse amare nel modo che gli amava. La sua maniera di conversare toccava presto il cuore di chi lo ascoltava. Lo chiamavano Gesù di Nazareth e parlavano di lui in tutte le città. Nel suo sguardo, nel suo volto, nel suo cuore aveva tanto amore. Su quella spiaggia, in alto mare, in riva al fiume, a casa di Zaccheo, per mille strade, sotto quel sole, la gente resta lì, attenta ad ascoltare. Parlando usava semplicità, ma pace e verità, a tutti lui donava. Lo chiamavano Gesù di Nazareth e parlavano di lui in tutte le città. Nel suo sguardo, nel suo volto, nel suo cuore aveva tanto amore. Sul prato in fiore di primavera, seduto al pozzo a casa di Simone, in quel villaggio, in quella sera, la gente ritrovò in lui la pace vera. Un dolce gesto lui perdonava, il vecchio nel suo cuor bambino diventava. Lo chiamavano Gesù di Nazareth e parlavano di lui in tutte le città. Nel suo sguardo, nel suo volto, nel suo cuore